Ebbene sì, allora il lunedì 5 settembre andiamo intanto con i titoli, il Sole 24 Ore, il fisco, rischio penale senza rete, il reato non colpisce solo le violazioni sostanziali ma anche l'abuso del diritto e l'elusione, ancora tante pagine di speciale sulla manovra e sui mercati, li trovate sul Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì. Mentre praticamente tutti gli altri quotidiani aprono su che cosa? Sulla novità più importante della manovra. Ieri sono stati approvati i vari emendamenti in commissione bilancio. L'emendamento più importante, quello che fa discutere, è quello sui licenziamenti. Fisco e licenziamenti, la nuova manovra, così titola il Corriere della Sera. Linea più morbida, redditi online senza nomi, niente conti correnti nelle dichiarazioni, passa la deroga all'articolo 18. Così Repubblica, manovra più facile licenziare. La Stampa, manovra si può licenziare se c'è il sì dei sindacati. E per Il Messaggero, lavoro e fisco si cambia. Il secolo XIX sarà più facile licenziare, e anche l'Unità, libertà di licenziare. Insomma, vedete che ricorre questo titolo sulla modifica dell'articolo 18. Berlusconi toglie il cappio, questo invece è il titolo del giornale, cancellate le norme sullo stato di polizia fiscale, più facile per le imprese licenziare. Ma insomma, tutti questi dettagli li vedremo un po' più avanti. Io prima voglio partire da alcune segnalazioni che mi hanno colpito. La prima è un articolo di Gian Antonio Stella, un'intera pagina, a pagina 15 del Corriere della Sera. Si concentra Stella su che cosa? Ricordate la proposta di Beppe Grillo di un po' di tempo fa, 4 anni fa per la verità. Beppe Grillo si presentò con 350.000 firme per un disegno di legge popolare depositate in Senato. Questo disegno di legge popolare in sintesi prevedeva: nessun cittadino può candidarsi in Parlamento se condannato in via definitiva, nessuno può essere eletto alle Camere per più di 2 legislature, basta con i deputati e senatori nominati dai capi partito. E si chiede Gian Antonio Stella, giusto, sbagliato, libero ciascuno di pensare che si tratti di proposte ottime o pessime, utili o inutili, virtuose o demagogiche, c'è però il nocciolo della questione, vale a dire: secondo la Costituzione, i senatori hanno il diritto di prendere uno per uno questi disegni di legge, valutarli, decidere se si tratta di sciocchezze e buttare tutto nel cestino, è nelle loro incontestabili facoltà. Quello che non possono fare, invece, è di infischiarsene di queste proposte, facendo finta che non siano mai arrivate. Lo ammise un anno fa anche il presidente del Senato Schifani, che disse: è un diritto, un dovere del Parlamento almeno dare una risposta da parte nostra. E invece Gian Antonio Stella denuncia da 4 anni, queste 350.000 firme giacciono lì, come di tanto in tanto Beppe Grillo dice, e il Senato non si pronuncia, non dice neanche no, non sono valide, non intendiamo esaminare questa proposta di legge popolare, però almeno dare una risposta. E racconta Gian Antonio Stella, dicono: beh, Beppe Grillo però è stato uno screanzato. Quando è stato convocato a Palazzo Madama parlò di un Parlamento di nominati in cui sono stati scelti amici, avvocati e qualche zoccola. Certo, non si comportò molto bene in quell'occasione, ma certamente la scelta di usare un linguaggio spiccio, ricco di parolacce, è una cosa che gli viene rinfacciata, ma chiaramente una risposta va data dal Senato. Grillo, le sue 350.000 firme e la dimenticanza del Senato, lo trovate a pagina 15. E poi voglio approfondire quello che è stata l'anticipazione che abbiamo fatto prima su questa pagina del giornale, veramente spassosa, pagina 13. Il titolo è Quiz da ridere per i fantozzi del Quirinale. Francesco Kramer racconta del concorso per gli aspiranti ragionieri del Colle, 6 posti che verranno assegnati con un quiz a un questionario in 60 minuti di risposta a multiple choice, cioè domande con 4 possibilità di risposta, solo che in questo questionario ci sono delle risposte per diventare ragionieri del Quirinale, francamente la lasciano un po' perplessi. Per esempio, beh, quella che ho letto prima, dove ha sede il Presidente della Repubblica? Uno deve andare al Quirinale a fare il ragioniere e ci sono le possibilità al Quirinale, oppure a Palazzo Madama, alla Farnesina, a Montecitorio, ma ci sono delle altre domande davvero surreali. Chi inventò l'alfabeto Morse? Vorrei chiederlo a Peter Bescapè in regia. E ci sono le possibilità: Newton, Morse, Homme o Darwin? È davvero una domanda alla quale rispondere è quasi impossibile. Oppure, se vuoi diventare ragioniere del Quirinale, potresti vederti sottoposto a questa domanda. Il cuore è l'organo centrale dell'apparato digerente, urinario, circolatorio o locomotore? E ancora, la dentatura di una persona adulta è formata da 32 denti, da 17 per arcata, da 19 per arcata o da 36 denti? Domanda fondamentale se si vuole diventare ragionieri del Quirinale. Bisogna rispondere a questa. Come, infine, quale personaggio carismatico nell'agosto 97 perse la vita in un tragico incidente automobilistico sotto un tunnel a Parigi? Elvis Presley, che è ancora vivo, notoriamente si sa, Diana, la principessa, Freddie Mercury o Jim Morrison? Ecco, se sapete rispondere a queste domande, potete forse, se siete ancora in tempo, presentarvi e diventare, chissà, ragionieri del Quirinale. La pubblicità. 24 mattino. Eccoci, 7:34 minuti. Allora continuiamo la lettura dei giornali che, come detto, si concentra in particolare sulla manovra, la manovra con le novità, manovra, qualcuno ironizza, dice versione 3.0, 4.0. Sta di fatto, allora, intanto avevamo un po' scherzato evidentemente sulla questione dei comuni che possono pubblicare tutti i redditi online con nome e cognome delle persone. È stato detto ed è stata fatta retromarcia subito dopo. Ieri fino alla serata i senatori, e così smettiamola di dire che non lavorano, hanno lavorato fino a tarda sera la commissione bilancio del Senato per approvare tutti gli emendamenti e scartare quelli che andavano scartati, approvare quelli che andavano approvati. E quello che fa più discutere e che prende tutte le prime pagine dei giornali è l'articolo 8 sulla deroga agli accordi nazionali per quel che riguarda la contrattazione. Contratti aziendali, si potrà licenziare. Questo è il titolo che vedrete comparire più spesso sui giornali. Sarà più facile licenziare, sarà più facile licenziare se c'è il sì dei sindacati. Queste sono le varie versioni. Di cosa si tratta? Racconta Antonella Baccaro a pagina 5 del Corriere della Sera. La licenziabilità può rientrare tra le deroghe alla contrattazione nazionale contenute in accordi aziendali e territoriali, purché a sottoscriverlo siano i sindacati più rappresentativi, non solo a livello nazionale, ma anche territoriale. Nessun licenziamento sarà comunque possibile per causa di matrimonio, ma anche per il periodo di gravidanza e i congedi parentali. Questo complesso di disposizioni contenute nell'articolo 8 approvato ieri in commissione bilancio ha fatto esplodere la conflittualità tra le parti sociali. Il Corriere spiega anche le nuove intese, come cambiano le regole. Sta di fatto che tutti i quotidiani, il Secolo XIX, pagina 4, ci si chiede: ora si è liberi o più liberi di licenziare? Questo emendamento rispetta la Costituzione? Ci troveremmo di fronte alla fine del contratto nazionale? Queste sono le domande che ovviamente ci si pongono i giornali, con anche varie posizioni affrontate attraverso diverse interviste. Per esempio, sulla Stampa, pagina 3, Raffaele Bonanni, che è il segretario della CISL, intervistato da Raffaello Masci, dice: ha visto, segretario, si potrà licenziare purché l'accordo ci sia dei sindacati. Dunque mai, risponde Bonanni, è evidente. Quale sindacato dà il proprio assenso a un piano di licenziamenti? Beh, ma allora abbiamo capito male? No, ma si fa grande allarmismo, risponde Bonanni. Non è questo che si dice che nell'articolo 8 della manovra, e non è la libera facoltà di licenziamento che viene sottoposta alla ratifica dei sindacati. Ci mancherebbe altro. Ora soprattutto la gente è spaventata, il paese è debole ed è impossibile far passare questi messaggi. Mentre Pietro Ichino, senatore del Partito Democratico, giuslavorista, sempre a pagina 5 della Stampa, dice: cambia con una nuova versione la formulazione originaria, la sostanza però rimane quella. La riforma del diritto del lavoro viene delegata alla contrattazione aziendale. Si rischia un aggravamento così però del dualismo nel nostro tessuto produttivo tra i lavoratori regolari delle aziende medio-grandi, per i quali presumibilmente non cambierà nulla, e i poco o per nulla protetti delle imprese più piccole, che rischieranno di perdere anche il poco che hanno. Dunque Ichino dice: attenzione a questo dualismo, saranno più tutelati quelli delle grandi aziende, ma quelle delle piccole aziende no. Mentre Susanna Camusso, segretario della, della CGIL, intervistato da Repubblica, Roberto Mania, a pagina 3, dice: pronto già il ricorso alla Corte Costituzionale, combatteremo chi sfrutterà la norma. Dunque un no secco da parte della Camusso, che dice: mai nella storia della Repubblica ci sono stati un governo e un ministro del lavoro che avessero come scopo quello di abolire il contratto nazionale, lo statuto dei lavoratori, i diritti dei lavoratori. Continueremo nel chiedere lo stralcio di quella norma quando la discussione arriverà nell'aula al Senato. Un invito che rivolgo a tutti, anche a CISL e UIL. Insomma, la posizione è dunque molto dura. A proposito di CGIL, di Susanna Camusso, c'è un caso che il direttore del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli, non esita a mettere in prima pagina del Corriere. È un corsivo firmato FDB, cioè Ferruccio De Bortoli per l'appunto. La CGIL è il Corriere, questo è il titolo. Lo sciopero nazionale della CGIL, che aggiungo io è previsto domani, impedirà domani l'uscita del Corriere della Sera. La maggior parte degli altri quotidiani sarà in edicola. In precedenti occasioni i lavoratori poligrafici con grande senso di responsabilità avevano garantito tutte le pubblicazioni. Questa volta no. La decisione è stata presa direttamente da Susanna Camusso. Ed è stato minacciato un ulteriore sciopero nel caso si tenti di far uscire ugualmente il giornale con le maestranze presenti. Un atto grave e discriminatorio, scrive De Bortoli. Ho chiesto al segretario della CGIL di esaminare la possibilità di una deroga, come sempre è accaduto. Non ho ricevuto risposta. Educazione a parte, mi è sembrato di cogliere nelle sue parole un fastidio nei confronti delle critiche e delle posizioni del Corriere, che mi ha sorpreso e amareggiato. Ci siamo sempre comportati in maniera corretta con la CGIL, pur non condividendone alcune scelte, e nell'impedire l'uscita del giornale, Susanna Camusso scrive una pessima pagina della sua gestione, nega i diritti di altri lavoratori e soprattutto dei lettori. Già, i diritti. Ne parlerà dal palco di Roma domani, segretario? Insomma, questo è l'attacco, la polemica molto dura di Ferruccio De Bortoli, che dice lo sciopero della CGIL per la prima volta impedirà l'uscita del Corriere. Vabbè, di manovra si è discusso ovviamente molto a Cernobbio, l'evasione fiscale sempre in primo piano per il governo, con Tremonti che ha rilanciato gli eurobond. C'è stato anche uno scontro dialettico con il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che dice c'è forte preoccupazione, chiediamo alla politica di rendersi conto della gravità della situazione e agire, visto che il paese rischia molto. La replica di Tremonti, che ha detto nella manovra ci sono 14 miliardi di tagli e 6 di tasse e non viceversa. Sta di fatto che insomma questa manovra continua a fare discutere. Poi Tremonti ha dato questo dato, scusate il gioco di parole, sulla questione dell'evasione fiscale, che ha fatto molto riflettere. In Italia solo in 796 dichiarano un reddito oltre il milione di euro. 796 persone, scrive il Corriere, non riempirebbero neanche la scala, metà della scala. 796 persone. Chi dichiara invece oltre 500.000 euro sono solamente 3.641 persone. Oh, su 41 milioni e mezzo di contribuenti, 3.641 persone. Un'anomalia sottolineata da Tremonti. E beh, sono lo 0,01% degli italiani che dichiarano sopra i 500.000 euro. Davvero un qualcosa che fa riflettere, come fa molto riflettere anche lo slogan sui ricchi, ricchi che devono pagare, anche i ricchi paghino. Piero Stellino in prima pagina del Corriere è molto duro, dice uno slogan sbagliato. Che cos'è questo di Tremonti? I ricchi paghino. È un'affermazione che puzza di demagogia lontano un miglio, che non fa onore né alla sua intelligenza né alla sua cultura, suona più una giustificazione dell'incapacità del governo di fargliele pagare che è un programma di rigore fiscale che andrebbe fatto con serietà. Ebbene, questo slogan che ricorda, ve lo ricordate, anche i ricchi piangano, di Rifondazione Comunista, no? Tanto che qualcuno dice Tremonti come Bertinotti. Sta di fatto che a proposito di evasione fiscale, oggi il Sole 24 Ore si concentra sui reati fiscali. Una soluzione ogni due denunce, questo è il titolo a pagina 3 con Andrea Maria Candidi e Giovanni Parente. La riduzione delle soglie di punibilità potrebbe far lievitare le segnalazioni di almeno il 50%. La lotta all'evasione rischia di passare sempre più dalle procure, infatti è stata abbassata la soglia di punibilità per i reati tributari e dunque le contestazioni potrebbero far aumentare la pressione del fisco sugli uffici giudiziari. È prevedibile un aumento di segnalazioni di circa il 50%, in pratica quasi 6.000 in più, anche se la storia recente insegna che poi quasi la metà dei fatti delittuosi accertati non si conclude con la condanna. Ecco qui, reati fiscali. Si rischia un ingolfamento forse anche dei tribunali con le maggiori segnalazioni, visto che è stata abbassata la punibilità, ma il dato di fatto è che una soluzione, ogni due denunce che vengono fatte, una finisce con l'assoluzione. Parleremo di tutto questo, di manovra, anche con tra gli altri Roberto Formigoni alle 8.20, perché le regioni fanno le barricate, lo sapete, dicono tagli alle regioni. Oggi il giornale torna, come ha fatto ieri, a dire sì, le regioni si lamentano. Comincino per esempio la regione Lombardia, per esempio, a vendere il Pirellone, la sede storica non più della regione Lombardia, o le partecipazioni, che ne so, alle Ferrovie Nord, che potrebbe essere privatizzata come partecipazione della regione Lombardia. Oggi il giornale ci ritorna: le regioni fanno le barricate, ma sono una casta da un miliardo. Ne chiederemo conto a Formigoni per cercare di capire il perché di questa protesta degli enti locali, regioni, ma non solo, anche comuni e province. Oltre alla manovra, l'altro grande tema che trovate sui giornali di politica certo è quello delle intercettazioni, tanto che secondo Repubblica, Carmelo Lo Papa a pagina 6, Berlusconi teme la borsa, oggi riapre, e le intercettazioni ne approfittano, vogliono farmi fuori, approfittare del prossimo tracollo in borsa, cavalcare la valanga di fango che sta per riemergere con le nuove intercettazioni per togliermi di mezzo. Questo, secondo Repubblica, è lo spirito di Berlusconi. Alla vigilia di una settimana di fuoco, il presidente è dato come determinato a resistere, ma un po' nel pallone. Scrive Repubblica, secondo quanto confida uno dei dirigenti del PDL che ha avuto modo di parlargli. Anche perché torna la prospettiva, nel caso di crisi finanziaria, che il Quirinale affidi l'incarico per un esecutivo di emergenza alla seconda carica dello Stato, vale a dire al presidente del Senato Schifani. Insomma, si torna con i soliti complotti, complottoni, su quello che potrebbe essere il tema delle intercettazioni, che certo non danno lustro all'immagine del Presidente del Consiglio. E proprio dalle intercettazioni, dalle vicende legate alla vicenda della Procura di Napoli, che indaga sulla presunta estorsione danni del Premier, ripartiamo dopo il traffico. Eccoci, 7:47 minuti. Allora, come detto, la vicenda della presunta estorsione danni di Silvio Berlusconi, ora l'indagine di Napoli, che ha portato già in carcere Giampaolo Tarantini, la moglie di quest'ultimo, anche se già gli arresti domiciliari avendo un bimbo di 2 anni, mentre è all'estero, è latitante il direttore dell'Avanti, Walter Lavitola, o bisognerebbe dire ex direttore dell'Avanti, certo si può dire ex giornalista, l'Ordine dei giornalisti di Roma, con un provvedimento del Lazio, per la verità, con un provvedimento lampo l'ha espulso e l'ha cancellato, tirata una riga su Walter Lavitola, è stato già cancellato dall'Ordine dei giornalisti. Insomma, intanto l'indagine è sui contanti a Tarantini, racconta il Corriere della Sera con Fiorenza Sarzanini a pagina 16, perché i pagamenti che ci sono stati, questo è stato ormai accertato, a Giampaolo Tarantini e Walter Lavitola, disposti da Silvio Berlusconi, violano la normativa antiriciclaggio. Secondo il giudice di Napoli, Amalia Primavera, nell'ordinanza di cattura degli uomini arrestati c'è proprio questo. In questa direzione si muovono gli accertamenti disposti dai pubblici ministeri, che già oggi potrebbero concordare con l'avvocato Ghedini la data per l'interrogatorio del Presidente del Consiglio, un interrogatorio al quale, come è stato detto più volte, il Premier non si può sottrarre perché non è indagato, è presunta vittima di questa estorsione. La legge vieta le transazioni in contanti superiori ai 5.000 euro, prevede sanzioni amministrative che impongano il pagamento di una cifra compresa tra l'1 e il 40% dell'importo totale, ed ecco dunque che l'ipotesi è la violazione delle normative antiriciclaggio. Pare che siano accertate finora, racconta Repubblica, 850.000 euro in un anno passati da Silvio Berlusconi a Giampaolo Tarantini, alla moglie, alla Vitola. Berlusconi ha sempre detto aiutato una famiglia in difficoltà. Ma secondo i magistrati ci sarebbe anche dell'altro, cioè ci sarebbero anche altre somme che al momento sono sfuggite. Comunque di questo, manovra e intercettazioni, di questo momento politico, insomma, ne parleremo poi alle 8:20, ci sarà prima il presidente della Lombardia Formigoni, poi ne parleremo con due direttori, Giorgio Mulè di Panorama, che per prima ha anticipato questa inchiesta, e Norma Rangeri, direttore del Manifesto. Vogliamo andare ad altre notizie, intanto una che riguarda il mondo della scuola, che viene anticipata dal Corriere della Sera: cambierà la maturità. Attenzione, perché dal 2012 arrivano i test invalsi, quelli che peraltro hanno suscitato anche diverse polemiche. Dal 2012, dal giugno, saranno sperimentati durante gli esami di Stato i test invalsi. Il Ministero dell'Istruzione sta cercando le scuole, una per ogni provincia, per fare questa sperimentazione che sarà volontaria. Le prove hanno l'obiettivo di misurare il livello di preparazione degli studenti a prescindere dal giudizio dei professori. Se la sperimentazione andrà bene nel 2012, poi dal 2013 potrebbe diventare obbligatorio il test invalsi nelle scuole per quel che riguarda la maturità, sostituendo dunque il quizzone attuale. Ecco come cambierà la maturità, da pagina 26 del Corriere della Sera potete sapere tutto. Io voglio però concentrarmi ora su quello che succede dall'estero, dove arrivano alcune storie interessanti. La prima è una sciagura quasi quotidiana che ci dobbiamo portare appresso, vale a dire Cesare Battisti, che dal Brasile parla, pontifica e dice la sua indisturbato. Una nuova intervista al quotidiano Folha de São Paulo, uno dei quotidiani più letti. Battisti dice questo: tenetevi forte, avrei ucciso se me l'avessero ordinato, ma per fortuna non l'ho fatto. Colui che è stato condannato per 4 omicidi, 2 compiuti direttamente, 2 nei quali è stato mandante, ed è dunque stato condannato a 4 ergastoli, Battisti dice: c'era una lotta civile, ma è lo Stato che ha sparato per primo. Io, se me l'avessero ordinato, avrei potuto anche uccidere. Per fortuna non l'ho fatto. Come dire, non si può neanche dire una presa in giro, è proprio qualcosa di più, uno sfregio totale per le vittime. Tra l'altro, cosa che fa più sfregio è anche vedere Cesare Battisti, riproposto dal quotidiano nazionale, sorridente con una bella birra ghiacciata mentre fa questa intervista. La novità però interessante è che si è scoperto dove vive, facciamolo sapere un po' a tutti, a Cananeia, una località a 250 km da San Paolo, una località, un paesino di 10.000 abitanti, per la prima volta si è scoperto vive lì, Cananeia, segnatelo bene, Cananeia, lo dico per chi non l'ha ancora capito. E questo per quel che riguarda Battisti, mentre un'altra storia che proviene dall'estero e che colpisce La Stampa e Il Corriere, vi dedicano una pagina, è questa: avete figli obesi? Ve li togliamo. È una vicenda che proviene dalla Scozia, dove nella città di Dundee una coppia si è visto togliere 4 ragazzi che potrebbero venire dati in adozione. Perché? Perché la famiglia è accusata di non essere in grado di gestire il loro regime alimentare, le loro abitudini alimentari. Davvero una misura estrema. Hanno provato di tutto, gliel'hanno prima sottratti per un certo periodo, li hanno obbligati a dire mandate i vostri figli a fare sport, e abolite le merendine. Li hanno addirittura messi come degli animali allo zoo, in una sorta di grande fratello in cui venivano controllati, cioè e veniva controllata la famiglia, i genitori controllati, adesso vediamo cosa gli date da mangiare. Questi genitori si sentono come dei criminali, dicono noi ce la stiamo mettendo tutta. Certo, la situazione è disperata, perché il figlio 12enne pesava 100 kg, la sorella di 11 anni 76 kg, la piccola di 3 anni 25 kg. Probabilmente hanno evidentemente dei problemi fisici notevoli, ma certo, arrivare a toglierli per mandarli in adozione è una storia che sta spaccando in due nettamente la Scozia. Sta di fatto che la troviamo sui giornali. Concludo allora col faccione di Desquedo. Ministro Scane è tornato in Francia, è l'apertura del quotidiano nazionale. Rieccolo, sorridente, tutto finito. È stato accusato di avere violentato una donna? No, tutto a posto. È arrivato, è sbarcato in Francia e ha detto a tutti: a bientôt, a presto. Il giornale radio.